Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. L'Italia sta attraversando un momento particolarmente impegnativo. Lo sta affrontando doverosamente, con piena trasparenza e con completezza di informazione nei confronti della pubblica opinione. Questo l'appello, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, del Presidente della Repubblica Mattarella. Lo avete sentito, in un momento appunto impegnativo, difficile, dice stiamo attraversando questo momento, bisogna farlo tutti insieme e con trasparenza, completezza di informazione. Poi nell'appello, in altri passaggi, Mattarella ha detto anche supereremo questo momento, dobbiamo farlo tutti insieme e vanno seguite le indicazioni del governo, anche se ancora molte polemiche tra governo e opposizione ci sono, i toni per certi versi si sono abbassati, per altri in realtà ci sono stati ancora screzi, attacchi eccetera, però speriamo che adesso la direzione sia quella, diciamo, univoca per combattere insieme il nemico. Sentiremo poi a questo proposito qual è l'umore anche dell'opinione pubblica rispetto a queste polemiche e alle indicazioni da seguire. Per quanto riguarda sempre il coronavirus, ci allargheremo anche ad altri orizzonti negli Stati Uniti, dove il presidente americano Trump oggi ha detto che i dati sul coronavirus dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sono falsi. Lui dice: ho avuto questa impressione parlando con la gente. E quindi ci collegheremo con gli Stati Uniti e magari anche con qualche aggiornamento per quanto riguarda la corsa delle primarie democratiche per le presidenziali 2020. Ci sarà fra l'altro ospite qui Effetto Notte la vice ministra dell'istruzione Ascani, visto che ieri è stata presa questa decisione eccezionale così importante di chiudere le scuole di ogni ordine e grado, quindi dall'asilo all'università, fino al 15 marzo. E anche se oggi il presidente del Consiglio Conte, a chi gli chiedeva ma quanto ancora durerà, ha detto ci aggiorneremo man mano in base ai risultati di queste misure di contenimento. Poi sono stati stanziati 7 miliardi e mezzo per imprese e famiglie. Insomma, non vi sto a raccontare tutto. Voi potete scrivere come sempre i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure li potete inviare via SMS o WhatsApp al 349-238-6666, 349-238-6666. Poi c'è il Twitter di Effetto Notte durante la diretta, oppure durante il giorno per alcune anticipazioni. Il Twitter è Roby con la Y, lineetta bassa, Giordano. L'evolversi del coronavirus: in Italia i malati sono 3.296, l'esecutivo stanzia 7 miliardi e mezzo per famiglie e imprese. L'appello di Mattarella: seguite le indicazioni del governo, rinviato intanto il referendum taglia parlamentari. E sulle scuole chiuse, Effetto Notte, ospite la vice ministra dell'istruzione Ascani. Il coronavirus in Europa: in Germania il primo focolaio, il paziente numero uno è un uomo di Monaco contagiato senza sintomi da un cinese. Stati Uniti, il presidente Trump dice che i dati dell'OMS, che accusa diversi stati di non fare nulla, sul coronavirus sono falsi. Il Congresso vara intanto un piano da 8,3 miliardi di dollari. E per le presidenziali 2020 si ritira anche la candidata democratica Elizabeth Warren. Siria, intesa tra Putin e Erdogan, tregua dalla mezzanotte. Per respingere i profughi siriani, Ankara pronta a mandare le forze speciali al confine greco. Sport, calcio e recuperi. Juventus-Inter si giocherà domenica sera. Cancellata la maratona di Roma, rinviato il rugby. Partiamo quindi ovviamente dalle notizie relative all'epidemia del coronavirus, iniziando dall'Italia. Con i dati aggiornati della Protezione Civile, sono 3.296 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 590 persone in più rispetto a ieri e 148 i morti, 41 in più. Sono 414 guariti dal coronavirus in Italia, 138 in più rispetto a ieri. Il nuovo dato è stato fornito, come sempre, puntualmente dal commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa della Protezione Civile. E ha aggiunto Borrelli: non ci sarà criticità nei nostri ospedali, compresi quelli della Lombardia, che sono oberati di lavoro. E ora passiamo alle misure del governo per contrastare le conseguenze non solo sanitarie del coronavirus. Palazzo Chigi stanzia 7 miliardi e mezzo a sostegno delle famiglie e delle imprese. Lo scostamento del deficit vale 6,35 miliardi. Le risorse sono significative e ci consentono di fare fronte alle esigenze immediate, ha detto il ministro dell'Economia Gualtieri. È stato rinviato intanto a data da destinarsi poi il referendum sul taglio dei parlamentari. Il governo stanzierà 7,5 miliardi per sostenere famiglie e imprese messe in difficoltà dal coronavirus. Risorse destinate a misure straordinarie e urgenti, dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E per fare tutto ciò l'esecutivo chiederà al Parlamento di alzare il deficit previsto dello 0,35% sul PIL, pari a 6,3 miliardi. Le misure antirecessione, spiega il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, confluiranno in un nuovo decreto che sarà varato la prossima settimana, dopo il via libera del Parlamento allo sforamento del deficit. Le risorse serviranno a rafforzare le strutture sanitarie, sostenere le imprese e irrobustire gli ammortizzatori sociali. Ci saranno misure che ci consentiranno di sostenere i redditi, salvaguardare l'occupazione e potenziare gli ammortizzatori sociali. L'obiettivo è quello che nessuno deve perdere il lavoro per il coronavirus. Nel prossimo decreto ci saranno anche misure per sostenere una moratoria dei crediti alle imprese da parte del sistema bancario e risorse per la protezione civile. Il governo, dice Gualtieri, ha già inviato la lettera alla Commissione europea per il via libera alle nuove misure e allo scostamento del deficit. Scelte e decisioni, assicura Gualtieri, compatibili. Sul deficit, chiosa Conte, non facciamo un salto nel buio. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Dicevamo quindi che è stata rinviato a data da destinarsi il referendum sul taglio dei parlamentari che era previsto per il prossimo 29 marzo e scontro ancora intanto tra maggioranza e opposizione, ma arriva l'appello del presidente Mattarella. Siamo un grande paese moderno, abbiamo un eccellente sistema sanitario nazionale che sta operando con efficacia e con la generosa abnegazione del suo personale a tutti i livelli professionali. Supereremo la condizione di questi giorni, anche attraverso la necessaria adozione di misure straordinarie per sostenere l'opera dei sanitari impegnati costantemente da giorni e giorni. E sempre il Presidente della Repubblica chiede di seguire le indicazioni del Governo. Il Governo, cui la Costituzione affida il compito e gli strumenti per decidere, ha stabilito ieri una serie di indicazioni di comportamento quotidiano, suggerite da scienziati ed esperti di valore. Sono semplici ma importanti per evitare il rischio di allargare la diffusione del contagio. Desidero invitare tutti a osservare attentamente queste indicazioni, anche se possono modificare temporaneamente qualche nostra abitudine di vita. Per esempio quella di andare a scuola. Ieri questa misura eccezionale che è stata presa dal governo sino al 15 marzo, per questo avremo ospite tra poco la viceministra all'istruzione Ascani. L'epidemia coinvolge ormai tutti i continenti, 164 casi, 11 vittime negli Stati Uniti, col presidente Trump che attacca l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ah, facciamo il punto. La paura per il coronavirus si sposta dalla Cina al resto del mondo. Nel paese del dragone, su 80.000 contagi iniziali, i guariti sono ormai 54.000 e le fabbriche cominciano a riaprire. Nel resto del mondo invece i contagi sono saliti a 16.500 e a breve sorpasseranno i malati in Cina. In Corea del Sud i positivi sono oltre 6.000, 3.800 in Italia, 3.500 in Iran. E i contagi crescono in tutta Europa, 349 in Germania, 373 in Francia, 248 in Spagna, 115 nel Regno Unito. Siamo preoccupati, ha detto l'OMS, perché una lunga serie di paesi non ha preso abbastanza sul serio il coronavirus e ha invitato a fare i tamponi a tutti i casi sospetti con sintomi. Negli Stati Uniti cresce la paura, 164 i contagi, 11 i morti. La California, dopo Florida e Stato di Washington, ha dichiarato lo stato di emergenza. E mentre il presidente Trump mette in dubbio il dato dell'OMS sulla mortalità, 3,4%, dalla Casa Bianca filtra un piano per aiutare i 28 milioni di americani del tutto privi di assicurazione sanitaria. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi per tutto questo ci collegheremo con gli Stati Uniti, da cui arriva anche la notizia per quanto riguarda le primarie dei democratici in vista delle presidenziali di novembre, che si ritira anche la candidata democratica Elizabeth Warren. E a proposito di comunicazioni distorte, oggi, a proposito di come il mondo guarda il nostro paese, adesso ci si mette anche la CNN. Dopo il video con la pizza Corona mandato in onda dal francese Canal Plus, ora è una TV americana a dipingerci come gli untori del mondo, in questo caso non attraverso un video satirico, bensì un servizio giornalistico. Protagonista, la televisione statunitense più guardata nel mondo, la CNN, che parlando dei contagi da coronavirus ha mandato in onda l'immagine di una cartina del mondo in cui il focolaio Cina non esiste più. In compenso al suo posto c'è quello italiano, da cui partono diverse frecce dirette ai vari paesi in cui si è diffuso il contagio. Coronavirus cases linked to Italy, ovvero i casi casi di coronavirus collegati all'Italia, il titolo mandato in onda in sovraimpressione. Sono scoppiate polemiche e proteste sui social con richieste di boicottare l'emittente USA. Su Facebook l'intervento di Luigi Di Maio. Questa è una visione distorta della realtà, scrive il ministro degli esteri. La disinformazione di alcune testate, continua, fa pugni non con delle opinioni ma con i dati numerici. L'Italia è la nazione che sta gestendo con più rigore questa emergenza che, come sappiamo, sottolinea Di Maio, si è sviluppata in Cina. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a questo proposito va detto che il primo contagio in Europa in realtà non è stato in Italia ma in Germania. È stato isolato a gennaio in Germania, a Monaco, lo indica la mappa genetica che ricostruisce una sorta di albero genealogico del virus. Il focolaio tedesco potrebbe aver alimentato silenziosamente la catena di contagi al punto di essere collegato a molti casi in Europa e in Italia. Il paziente numero uno di Monaco aveva mostrato i primi sintomi il 24 gennaio dopo aver incontrato un collega proveniente da Shanghai. Siamo ancora all'estero, le forze del regime siriano hanno violato gli accordi, gli abitanti di Idlib sono scappati. Assad vuole spazzare via i civili in quella regione e noi non staremo a guardare, l'ha detto il presidente turco Erdogan al termine dei colloqui col presidente russo Putin, sottolineando che la cooperazione tra Ankara e Mosca è ad un alto livello e questo permette di raggiungere degli accordi, di trovare un punto comune e arrivare a un cessate il fuoco in Siria a partire dalla mezzanotte di oggi, speriamo. E però c'è sempre la tragedia dei migranti, dei profughi, ancora tensioni al confine greco-turco per il passaggio dei profughi siriani. La Turchia annuncia l'invio di agenti delle forze speciali. Si alza la tensione tra Grecia e Turchia. Ankara è pronta a inviare alla frontiera con la Grecia 1000 agenti delle forze speciali per evitare i respingimenti di Atene. Lo ha annunciato il ministro dell'interno Süleyman Soylu. Sono 138.000 i migranti che secondo la Turchia si sono diretti dalle zone interne del paese verso la frontiera con la Grecia per cercare di entrare nell'Unione Europea dopo che Erdogan ha annunciato che non li avrebbe più fermati. Ankara ha accusato le autorità greche di aver sparato a morte e ferito i migranti vicino al confine. Atene nega. Di certo la polizia greca usa gas lacrimogeni e granate stordenti contro i migranti. Ci sono molte testimonianze in questo senso e testimonianze anche del fatto che uomini della formazione di estrema destra Alba Dorata hanno sparato contro un'imbarcazione di migranti sul fiume Evros al confine. A una giornalista che chiedeva se è lecito sparare sui migranti, come accusata di fare ora la Grecia, il portavoce della Commissione Europea, Eric Mamer, ha risposto: dipende dalle circostanze. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Patrick George Zaki è stato trasferito dal carcere di Mansoura a quello di Tora al Cairo, lo ha riferito uno dei suoi avvocati, del ragazzo egiziano che studia all'Università di Bologna, è stato arrestato in Egitto per propaganda sovversiva su Facebook, quindi è stato trasferito, l'ha detto uno dei suoi avvocati, senza poter precisare in quale sezione della prigione, se per detenuti politici o comuni, sia stato rinchiuso appunto lo studente. L'udienza per il rinnovo della custodia cautelare prevista finora per sabato si terrà quindi al Cairo, così ha detto il legale contattato per telefono dall'ANSA. Di nuovo in Italia con la cronaca. In Sicilia l'ultimo episodio di aggressione contro una giovane dottoressa. Il coronavirus sta peggiorando tutto, l'accusa. Ancora un'aggressione in un pronto soccorso e la vittima, una giovane dottoressa, questa volta si dimette e lancia l'allarme. La paura del coronavirus, dice, toglie lucidità. Guardia medica di Polizzi Generosa, nel palermitano, è la notte del 26 febbraio quando un uomo telefona per chiedere una visita domiciliare per la moglie. Aveva i brividi ma niente febbre, racconta il medico, che non potendo lasciare il presidio li invita ad andare in ambulatorio. Lì arriva però solo l'uomo che, stando alla ricostruzione dell'ordine dei medici, va in escandescenza. Interviene il padre della dottoressa, solito dormire in ambulatorio a tutela della figlia. Risultato per lui due costi. Le rotte. Ho troppa paura e poiché non posso essere spostata mi sono dimessa, racconta il giovane medico, uno dei tanti vittima di aggressioni, più di 1000 ogni anno si stima, tanto che sono state introdotte ulteriori tutele legali per gli operatori sociosanitari. Ma la paura da coronavirus, confermano i camici bianchi, complica ulteriormente la situazione. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla vigilia dell'8 marzo, ancora in calo gli omicidi in Italia, ma non quelli che hanno per vittime le donne. 8 donne su 10 che sono state uccise conoscevano il proprio assassino, quindi non è rassicurante. Sul fronte dei femminicidi, il report dell'Istat è riferito al 2018, in cui si sono registrati 345 omicidi rispetto ai 357 dell'anno precedente. Tra i partner nel 2018 i mariti e gli ex mariti sono stati gli autori nel 71,2% degli omicidi, con una percentuale in crescita rispetto al 2017. E sempre in questa vigilia arriva l'allarme lanciato da Danja Mijatović, commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, che dice: alla vigilia dell'8 marzo, nell'anno in cui si celebra il 25esimo anniversario della dichiarazione di Pechino, è triste rendersi conto che molte sfide individuate 25 anni fa sono ancora oggi presenti in Europa, dove i progressi in alcuni settori sono bloccati a causa di ostacoli strutturali persistenti e crescenti contraccolpi ai diritti delle donne, combinati alla mancanza di una risposta adeguata e forte da parte degli Stati. E la commissaria europea chiama l'intera società, giovani e anziani, donne e uomini, a denunciare violenza e discriminazione, perché l'attuazione dei diritti delle donne, dice, dipende da ciascuno di noi. Per chiudere lo sport, calcio e recuperi, Juventus-Inter si giocherà domenica sera, cancellata la maratona di Roma, rinviato il rugby, insomma una serie di manifestazioni che saranno spostate o per il momento annullate, ma ne parleremo nel corso di questa puntata. Intanto voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666, torno ratta come la folgore. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Tantissime notizie che vi ho sintetizzato nella prima parte, come sempre, Roberto Giordano con voi, vi aggiorno man mano anche che arrivano quelle nuove e poi ci sono gli approfondimenti immancabili con gli ospiti per addentrarci dentro gli argomenti principali, dove fare anche maggiore chiarezza. Ne parleremo tra pochissimo, mentre un ascoltatore dice: va bene che siete filo governativi senza alcun dubbio, ma invitare sempre, appunto, dice in questo caso in una settimana, la ministra Scania addirittura due volte. Ma in realtà su questi temi, scusate ascoltatrici e ascoltatori, questo è un ascoltatore che evidentemente non lo so da che mondo proviene, per parlare delle misure del governo chi dobbiamo chiamare per farcele spiegare attentamente, per rispondere anche alle vostre domande naturalmente al 349-238-6666 o sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Vi ricordo appunto che gli argomenti principali riguardano sempre l'evolversi del coronavirus. Avete sentito anche l'appello di Mattarella che dice: seguite le indicazioni del governo, dobbiamo avere fiducia nel paese e nel governo. Poi il coronavirus in Europa, dove si è capito che è stato in Germania il primo focolaio, il paziente numero uno è di Monaco ed è stato contagiato senza sintomi da un cinese. Negli Stati Uniti c'è il presidente americano Trump che mette in dubbio i dati dell'OMS e poi per le presidenziali 2020 si ritira anche la candidata democratica Elizabeth Warren. In Siria purtroppo continua la tragedia dei profughi e per lo sport, calcio e recuperi, Juventus-Inter si giocherà domenica sera, cancellata la maratona di Roma, rinviato il rugby. Al momento non abbiamo deciso sino al 15, ovviamente in prossimità della scadenza, con un certo anticipo per evitare ovviamente incertezza, memori anche del fatto che effettivamente poi ieri questa fuga di notizie ha creato un po' un quadro di incertezza per alcune ore, torneremo a fare un aggiornamento. In questo momento non lo so neanche io, come anche inizieremo a valutare che impatto hanno avuto queste misure. Perché alla fine non lo sanno, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, nemmeno gli esperti da un punto di vista scientifico-sanitario, che evoluzione avrà questo virus, questo coronavirus Covid-19, e lo dicono apertamente, così oggi il Presidente del Consiglio Conte, a chi faceva la domanda principe per quanto riguarda le scuole chiuse, quanto durerà questa chiusura, ha detto: ci aggiorneremo man mano, vedremo l'evolversi dell'epidemia, anche che risultato avranno queste misure di contenimento e poi ci aggiorneremo. E quindi ieri per la necessità di fronteggiare il coronavirus il governo ha varato queste misure eccezionali, tra cui una appunto certamente di grande impatto, che è la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dagli asili all'università, da oggi fino al 15 marzo per il momento. Il Ministero dell'Istruzione si è impegnato per servizi scolastici a distanza per tutti gli studenti. Ieri la Vice Ministra dell'Economia Castelli ha detto che si provvederà, dice: ci stiamo muovendo con la massima celerità e determinazione a tutela dei lavoratori pubblici e privati. La Ministra da famiglia Bonetti ha annunciato misure a sostegno delle famiglie, spese per il babysitting, estensione dei congedi parentali, eccetera. E allora coinvolgo naturalmente una protagonista per quanto riguarda il mondo della scuola, che è Anna Scani, vice ministra dell'istruzione. Buonasera, ministra Scani. Buonasera a voi. Quindi conferma, come ha detto il presidente del Consiglio Conte, alla domanda che tutti si fanno: quanto resteranno chiuse le scuole? Si vedrà man mano che cosa succede, ministra Scani? Certo, c'è da tenere in considerazione che questa scelta è stata drastica e molto dolorosa per noi, in particolare per noi che abbiamo la responsabilità dell'istruzione. Penso che nessuno che sia dal Ministero dell'Istruzione vorrebbe mai dover chiudere le scuole, quindi quello che ci auguriamo noi è che si possa tornare nel più breve tempo possibile alla normalità. Dopodiché è stata una scelta necessaria, e quindi solo nel momento in cui gli scienziati e le evidenze ci diranno che è possibile riaprire le scuole, allora si procederà in quella direzione. Per il momento noi abbiamo previsto la chiusura fino al 15 marzo e poi, come ha detto il Presidente, quando ci avvicineremo a quella data, dandone però preavviso in modo da non creare incertezze, come purtroppo è accaduto per qualche ora ieri, decideremo il da farsi. Ministra, invece, quindi finché i ragazzi, i bambini sono a casa, e si comincia a parlare appunto di didattica a distanza per dare una certa continuità didattica, sarà estesa a tutte le scuole? Come funziona in questo momento? In realtà non se ne comincia solo a parlare, ma si fa, perché dallo scorso lunedì, anche perché alcune scuole erano chiuse già dallo scorso 23 febbraio, è attiva sul sito del Ministero una pagina web che raccoglie le piattaforme attraverso le quali le scuole stanno facendo didattica a distanza, ed è attivo anche un canale Indire per la formazione dei docenti che devono in qualche modo adeguarsi a questa nuova realtà. Per cui devo dire, peraltro, è impressionante la forza di volontà e l'entusiasmo dei docenti in queste ore nel mettersi in gioco e nel provare a sperimentare qualcosa di assolutamente nuovo per molti di loro, ma che tutti vorremmo far arrivare al maggior numero possibile di bambini e di ragazzi. Abbiamo chiesto di monitorare la situazione anche agli uffici scolastici regionali, e quindi insomma poi capiremo quello che effettivamente sta succedendo nelle scuole italiane. Ma devo dire che in queste prime ore è impressionante la partecipazione dei docenti a questo processo, c'è davvero un senso di responsabilità straordinario nella comunità scolastica, e quindi io ovviamente non posso che ringraziare i docenti, i dirigenti e tutto il personale che stanno facendo un grande lavoro. E per quanto riguarda invece le università, ovviamente sono chiuse come le scuole, c'erano tanti ascoltatori anche ieri che chiedevano, ma anche l'università, abbiamo detto, su tutto il territorio nazionale di ogni ordine e grado. È vero che qualcuno si può laureare in questo periodo via Skype? Guardi, io non ho, come noto, i ministeri sono stati separati, io mi occupo di istruzione e non di università, perché ormai c'è un ministero dell'università e della ricerca. Quello che è stato scritto nel DPCM è che sono sospese le lezioni, e quindi le lezioni in presenza, e naturalmente è tutto quello che rientra sotto la dicitura attività didattica, per cui tutto quello che può provocare un assembramento di persone che favorirebbe la diffusione del virus. Quindi le soluzioni alternative che vengono trovate poi nelle singole università e col consenso del Ministero dell'Università vanno tutte esperite, perché naturalmente poi c'è il diritto dei ragazzi a concludere il proprio percorso, però diciamo che questa cosa non è di stretta competenza del nostro ministero, che invece a seguito dello spacchettamento si occupa di scuola, diciamo dallo 06 fino ai 18-19. A questo proposito, ministra Scani, l'anno scolastico, molti si chiedono, molti genitori, sarà comunque valido anche magari con tante assenze fino al 15 marzo e magari oltre, o dovrà essere allungato questo, perché girano queste ipotesi di allungare a giugno, addirittura di sacrificare le vacanze di Pasqua? Guardi, questo è stato già scritto in un decreto precedente la chiusura delle scuole, che anche se non si dovessero raggiungere i 200 giorni l'anno scolastico sarà valido. Dopodiché noi dovremo porci il problema di capire come tutelare il diritto allo studio dei ragazzi se dovessimo allungare ancora il periodo di sospensione delle attività didattiche. Questo naturalmente è un problema che si porrà qualora la sospensione dovesse durare più del periodo che fin qui abbiamo previsto, e quindi lì valuteremo il da farsi anche in questo senso. Ma nessuno perderà l'anno scolastico, questo è quello che possiamo dire. anche le assenze forzate dal coronavirus non verranno conteggiate, giusto, ministra? Assolutamente, c'è scritto già in un decreto del governo che appunto precede la chiusura delle scuole, ma già che arriva che anche il mancato raggiungimento appunto dei 200 giorni per causa di forza maggiore non avrebbe provocato il venir meno della validità dell'anno scolastico. Gite, viaggi di istruzione, non ne parliamo ovviamente, se non c'è la didattica a scuola tantomeno, no, queste cose di evasione. Beh, ma il senso dei provvedimenti che noi abbiamo preso tutti è fare in modo che non si creino assembramenti e che le persone circolino soltanto per lo stretto necessario. Dobbiamo tutti, in qualche modo, l'ha detto il Presidente della Repubblica, adesso attenerci a delle regole che, lo capisco, sono particolarmente pesanti perché limitano la nostra socialità, ma che se rispettate possono portarci al risultato di arginare il virus, e questa è la priorità assoluta. Solo se riusciamo ad arginare il contagio potremo poi tornare alla normalità, e più rispettiamo le regole, compresa quelle degli spostamenti, e quindi ovviamente le gite di istruzione sono un caso di questi, più sarà semplice tornare alla normalità e riusciremo a farlo più in fretta se saremo più bravi nel rispetto di queste regole. E invece stavo pensando, ministra Scani, ovviamente adesso questa non è materia sua, però i genitori si devono riorganizzare, le famiglie, no? Con lo smart working, con il babysitting, visto che il governo dovrebbe approntare misure pratiche ed economiche, no? Sia per il babysitting, lo smart working, sia per dare modo a un genitore di stare a casa, in questo modo però non penalizzare le aziende. Ci sono varie misure, certo, adesso, no? In queste ore è stato approvato intanto uno scostamento di bilancio di 7,5 miliardi che credo sia un primo passo importante da parte del governo, e come ha detto il ministro Gualtieri, all'interno di questo primo stanziamento troverà sicuramente spazio un sostegno alle famiglie. So che il Ministero del Lavoro, quello della famiglia, insieme al Ministero dell'Economia sono al lavoro per capire come dare sostegno a quelle famiglie che, avendo i figli a casa in questo momento, o devono sostenere spese ingenti per la babysitter e comunque insomma per poter avere qualcuno che si occupi dei figli, oppure perdono giorni di lavoro. Quindi è evidente che bisogna intervenire, e per questo già in questo decreto che verrà scritto nelle prossime ore saranno contenute delle misure a sostegno dei genitori che in questo momento giustamente ci chiedono una risposta in questo senso. Perché io credo sia stata accolta tutto sommato bene la decisione di chiudere le scuole, cioè si è capito che è una decisione prudenziale per il bene dei cittadini, dei più piccoli, ma in generale di tutti i cittadini, perché sappiamo che poi il problema vero è che bambini e ragazzi rischiano di diventare i vettori di questo virus, e quindi per questo abbiamo deciso di chiudere le scuole. Però giustamente le famiglie chiedono una risposta in termini di sostegno anche economico e organizzativo, naturalmente, rispetto a dover gestire una situazione nuova. Ministra Scani, c'è per esempio Rossella che chiede: per i docenti delle scuole paritarie o a collaborazione, quindi senza stipendio per 3 settimane, dice, se tutto va bene? No, assolutamente. Noi all'interno di questo decreto prevedremo anche misure per fare in modo che non ci siano, nessuno perda quello che avrebbe avuto in una situazione ordinaria. Cioè queste sono cause di forza maggiore che separano le persone dal loro lavoro, e quindi sono allo studio misure, ovviamente queste riguardano la scuola, ma può immaginarsi che situazioni del genere ci sono un po' in tutti i settori. Noi faremo in modo di dare il sostegno a tutti quelli che, se non ci fosse stata questa decisione, se non ci fossero state cause di forza maggiore, sarebbero regolarmente al lavoro, e in questo statale o paritaria non fa differenza, anche perché noi abbiamo un sistema di istruzione integrato dal 2000, e quindi per noi l'istruzione è fatta insieme dalla scuola statale e da quella paritaria. Ministra Scani, mi pare che lei abbia proposto, visto che ci saranno tanti bambini e ragazzi a casa per un po' di tempo, di cambiare i palinsesti RAI? Fatto questa proposta? Sì, in realtà la proposta viene da una mia collega che è membro della commissione di vigilanza RAI, Flavia Piccoli Nardelli, che è stata anche presidente della commissione cultura. E io trovo che la proposta sia molto sensata, perché in questi giorni in cui noi abbiamo bambini e ragazzi a casa, la RAI secondo me dovrebbe approfittare per utilizzare quei contenuti che normalmente manda in canali come Rai Scuola, Rai Cultura, che sono decisamente meno seguiti e anche meno noti, comunque dei, dei contenuti che favoriscano l'apprendimento, che siano contenuti culturali anche sui canali principali. Credo che questo sarebbe un bel messaggio, sarebbe anche molto utile per gli stessi genitori che hanno i figli a casa, poter diciamo contare su un servizio pubblico che in questo caso dà una mano di sostegno anche a, a quel po' che manca naturalmente in termini di possibilità di accedere alla cultura. La televisione non potrà mai sostituire la scuola, però diciamo che se la RAI facesse questo, secondo me darebbe un bel segnale di attenzione ai bambini e ragazzi e alle loro famiglie. Qui un grosso cambiamento, anche da questo punto di vista, un grosso cambiamento culturale. Poi tra poco parlerò con il presidente della Società Italiana Psichiatri, perché poi questi ragazzi, alcuni specie di adolescenti, rischiano di fare un'overdose di social, di stare davanti alla PlayStation, all'evoluzione anche di questi giochi sulla televisione. Però voglio, per chiudere, ministra Scani, velocemente una domanda. Tra la, il video riguardoso nei confronti dell'Italia della TV Canal Plus di due giorni fa e la CNN che oggi aveva fatto questa mappa con l'Italia che sembrava il crocevia di tutti i virus del mondo, che commento farebbe lei? Guardi, l'Italia è un grande paese che ha un sistema sanitario straordinario e che anche in queste ore sta dimostrando che non ha nulla da invidiare a nessun altro paese, perché di fronte a un'emergenza del genere i sistemi sanitari degli altri paesi sarebbero già collassati. Io credo che dobbiamo essere orgogliosi del nostro paese, del modo in cui anche i cittadini stanno reagendo a questa emergenza con grande compostezza, dimostrando capacità di rispettare le regole, dimostrando fiducia nelle istituzioni. E quindi francamente ai nostri diciamo vicini di casa io semplicemente suggerirei di guardare quello che si sta facendo nei nostri ospedali, perché se questa epidemia dovesse altrove, io credo che sarà bene imparare dall'Italia, da quello che l'Italia sta facendo. Già sta succedendo, in realtà sta già succedendo nel resto d'Europa. Io me lo auguro, spero che più zone possibili del mondo possano essere risparmiate da questa emergenza, ma devo dire che sono orgogliosa del mio paese se guardo a come noi stiamo gestendo un'emergenza che obiettivamente è molto dura e mette alla prova lo Stato in quanto tale. Grazie ministra Anna Scani, grazie e buon lavoro. Arrivederci, grazie. Oh, e quindi dicevamo, scuole chiuse, quindi genitori e famiglie che si devono riorganizzare, le annunciate misure di sostegno del governo, ma l'allarme, dicevo, lanciato dalla Società Italiana di Psichiatria, la SIP, secondo la quale i bambini potrebbero avere un destabilizzamento del comportamento e così anche i ragazzi. Per i ragazzi in particolare c'è il rischio di overdose da social. Allora coinvolgo subito il professor Enrico Zanalda, che appunto è presidente della Società Italiana di Psichiatria. Buonasera Zanalda. Pronto professore? Mi sente? Buonasera, sì. Ah, ecco, ecco. Buonasera. Professore, mi sente? Io la sento un po' avvattato. Sì. Allora, Non so come mi sente adesso? Lei ha meglio? Per caso un viva voce, ha un auricolare? No, no, no, no, adesso, no. Adesso un po' meglio, un po' meglio. Questo allarme appunto perché cambiano le cose, bisogna riorganizzarsi e anche come dire, rivedere il nostro modo di vivere, così le famiglie con i ragazzi che staranno a casa un po', sono già stati a casa in alcune regioni. Che cosa consiglia lei per evitare che gli adolescenti si imbambolino davanti alla televisione, così anche i bambini, magari in modo diverso, ma insomma non è certo il modo migliore di passare il tempo? Ma allora io credo che ci siano due diciamo fasce di età. I più piccoli vanno in qualche modo rassicurati, perché la routine che hanno, che avevano di andare a scuola, di vedere i compagni, di stare con i professori, deve essere spiegata anche per l'allarme che c'è intorno nella famiglia, può esserci rispetto all'epidemia influenzale. E quindi bisogna spiegargli bene quello che succede, dire la verità in maniera adeguata. Ci sono anche delle modalità che ho visto su web molto corrette per poter spiegare quello che sta succedendo. E questo per questi più piccoli che non possono stare da soli, sarà più difficile forse utilizzare la risorsa dei nonni, che probabilmente devono rimanere in casa o comunque devono ridurre i contatti, ma i genitori devono organizzarsi effettivamente per tenerli insieme, magari riscoprire la modalità di giocare con loro, di aiutarli a evitare che si sentano isolati, magari anche invitando l'amichetto e alternandosi con i genitori e i compagni di scuola. Quindi per superare magari questi momenti di ansia, a volte magari anche di noia. Invece per quanto riguarda gli adolescenti, professor Zanata? Gli adolescenti la situazione è un po' diversa, perché in questo caso credo che siano più portati a vedere l'aspetto ludico della situazione, però in un mese di assenza da scuola in questo periodo dell'anno non è molto consigliabile per quanto riguarda l'apprendimento e quello che è poi la didattica in generale, e evitare che si passino la maggior parte del tempo attaccati al computer e attaccati soprattutto ai videogiochi. Questo è un po' inevitabile che ci sia un aumento di questa situazione, però sappiamo anche come molti professori utilizzino questi strumenti anche per mandare compiti, per poter mettersi in contatto con i ragazzi. In questo momento lo smartphone, che a scuola viene in qualche modo bandito, potrebbe diventare invece a casa uno strumento di didattica e non solo una modalità per comunicare tra coetanei, quindi anche con i professori, anche per poter avere degli input di culturali. Vedete come stanno cambiando improvvisamente, chi l'avrebbe detto qualche tempo fa, pochi giorni fa, anche poche settimane fa, come sta cambiando la nostra vita, ma anche diciamo con la capacità di piano piano di essere flessibili e di capire che cosa è giusto e cosa può essere anche a volte stimolante di volta in volta. Grazie professore Enrico Zanalda. Grazie buonasera, professore. Buonasera. Grazie, adesso ci dobbiamo proprio lasciare per questa pausa di riflessione breve e poi tra poco parliamo naturalmente di altro. Vedremo un po' qual è l'umore secondo i sondaggi rispetto alla politica. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ieri, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, come si diceva, per il nostro paese è stato sul fronte del coronavirus un giorno molto ad alta intensità, molto importante, no? Per quanto riguarda la capacità di decidere, di prendersi delle responsabilità da parte degli esperti e in particolare anche dalla nostra classe politica, dalla classe dirigente. Insomma, una giornata che è stata davvero eccezionale, perché appunto è stata presa una decisione senza precedenti, in particolare, lo sapete, abbiamo parlato con la chiusura delle scuole su tutto il territorio nazionale, scuole e università, con provvedimenti molto stringenti anche per manifestazioni, eventi vari, eventi sportivi, cinema, teatri, eccetera. Una giornata in cui, fra le altre cose, c'è stato anche un forte appello da parte del governo nel suo insieme all'unità della politica del paese per sconfiggere il nemico comune che è per l'appunto il coronavirus. Perché sin dall'inizio dell'emergenza coronavirus in Italia, diciamo che l'opposizione al governo, ma in particolare da parte del leader della Lega Salvini, sono arrivati dei forti attacchi al governo, con la richiesta addirittura nei giorni scorsi di formare un governo di unità nazionale che traghettasse fino ad arrivare presto, insomma, delle elezioni anticipate. Tutto questo sino a ieri, dopo un'intervista al quotidiano spagnolo El País, nella quale Salvini definiva il governo italiano incapace di gestire l'emergenza di coronavirus, sono piovute sul leader della Lega, ve lo raccontavo ieri, delle forti critiche. Per esempio è intervenuta la vicepresidente del Partito Democratico Deborah Serracchiani, che ha detto: Salvini sporca così l'immagine dell'Italia all'estero, perché è la conferma che dell'interesse nazionale non gli importa nulla e anzi è pronto a danneggiare il suo paese se può servire alla sua propaganda. Ormai, ha detto Serracchiani, è chiaro che di quest'uomo in Italia l'Italia non si può fidare nemmeno nel momento del bisogno. Poi subito dopo è arrivata anche la critica di Di Maio a Salvini, sempre relativamente a questa intervista di Salvini al Paese. Ha detto: non ho nessuna intenzione di aprire polemiche, ha detto Di Maio, ma se il tuo paese è in difficoltà ti rimbocchi le maniche per aiutarlo, non vai in giro per il mondo a parlarne male. I veri patrioti sono quelli che lavorano per i propri cittadini, medici, infermieri, militari, amministratori locali, amministratori regionali, non, concluso Di Maio, questi sovranisti da avanti spettacolo. Quindi diciamo accuse piuttosto forti nei confronti di Salvini. E poi è arrivato a un certo punto, proprio ieri, poco prima di effetto notte della diretta, il videomessaggio alla nazione di Conte. Sentiamo questo passaggio. Non è la prima volta che il nostro paese si trova ad affrontare emergenze nazionali. Ma siamo un paese forte, un paese che non si arrende. È nel nostro DNA. Stiamo affrontando la sfida del coronavirus. È una sfida che non ha colore politico. Deve chiamare a raccolta l'intera nazione. È una sfida che va vinta con l'impegno di tutti. Cittadini, istituzioni, scienziati, medici, operatori sanitari, protezione civile, forze dell'ordine. L'Italia tutta è chiamata a fare la propria parte. E poi ha detto sin dall'inizio noi abbiamo cercato di parlare, di comportarci con verità e trasparenza. Da gennaio, quando avevamo appena due casi, abbiamo subito messo in atto misure che sono apparse drastiche, ma che in realtà erano semplicemente adeguate, proporzionate a tutelare la salute dei cittadini, a contenere la diffusione del contagio. Abbiamo sempre agito sulla base delle valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico, scegliendo sempre la linea della trasparenza, la linea della verità, decisi a non alimentare diffidenze, complottismi. La verità è l'antidoto più forte. La trasparenza è il primo vaccino di cui dotarci. E poi Conte ha detto abbiamo imparato dall'emergenza del Ponte Morandi, quello deve essere il nostro modello in modo che l'Italia, insomma, perché in tempi stretti si sta ricostruendo il ponte, dice l'Italia se collaboriamo tutti insieme potrà rialzare presto la testa. E quindi che cosa è successo poi? Ieri sera, proprio in tarda serata, era già finito effetto notte, è arrivata una dichiarazione via video Facebook di Salvini di toni decisamente diversi. Non è evidentemente il momento per fare polemica politica, siamo a disposizione di chi ha bisogno di competenza, di chi ha bisogno di serenità e di proposte concrete, e quindi se gli appelli fatti ad esempio dal ministro Di Maio e da altre forze a portare un contributo non di poltrone o di posti, ma di idee, di soluzioni, di risposte ai problemi del paese, noi ci siamo. Domani come centrodestra ci incontreremo, ragioneremo insieme per una proposta comune, perché prima in questo momento viene l'Italia. E appunto poi oggi c'è stato questo incontro. Sentiamo come ultimo passaggio anche il segretario del PD Zingaretti a proposito appunto dell'unità. È evidente che c'è un obiettivo che deve unire l'Italia, che è quello di fermare il virus. E questo obiettivo deve unire l'Italia significa ovviamente le istituzioni, ovviamente le forze politiche, ovviamente tutti i corpi dello Stato che sono coinvolti. E a questo punto ci chiediamo qual è l'atmosfera in Italia, che cosa pensano le italiane e gli italiani, no, di questa situazione. Lo possiamo evincere dai sondaggi della luminare dei sondaggi, analista politica, direttrice di Euromedia Research, che è Alessandra Ghisleri. Alessandra, buonasera. Buonasera, buonasera. E grazie di essere qui. Allora, tu hai fatto dei sondaggi naturalmente in questi giorni che ci danno un po' l'idea di che cosa gli italiani a proposito di unità, di quale direzione prendere, di cosa ne pensano delle polemiche politiche, no? Questi sondaggi ci danno una risposta. Allora, noi evidentemente sempre facciamo il nostro lavoro e quindi rileviamo gli umori delle persone su quello che accade, quanto i fatti di attualità contingente influenzano anche le nostre scelte, i nostri giudizi. In un caso come questo, in un'emergenza come questa, in una situazione così difficile, è evidente che la gente è preoccupata, quindi tolto il fatto che le persone sono ansiose di conoscere qual è il futuro, quali saranno le possibili cure. Certo. Le persone non amano allo stesso tempo sentire le polemiche politiche, è colpa tua, è colpa mia, è il governo precedente, i temi da campagna elettorale, queste dichiarazioni molto cupe non aiutano. Non a caso all'interno delle intenzioni di voto i due partiti diciamo più che alzano sempre di più la palla alla polemica, cioè il partito di Renzi e il partito della Lega, sono quelli che hanno subito diciamo un piccolo rallentamento nella raccolta dei loro consensi. A questo proposito, Alessandra, quindi ho ripreso il tuo schema dei risultati appunto che hai presentato tra ieri e oggi. La Lega dal 3 marzo, quindi gli ultimi risultati sono del 3 marzo rispetto al 17 febbraio, no? Sì. La Lega adesso è il 28,5%, quindi perde meno 2,5%. Il Partito Democratico è al 21 e guadagna un più 0,7, il Movimento 5 Stelle è un 14,6 e guadagna, forse per la prima volta negli ultimi tempi, più 0,2, Fratelli d'Italia è a 12,9, anche qui un risultato positivo, più 1,1, Forza Italia è al 6,5 e guadagna un più 0,3 e poi Italia Viva, come dicevi, è a 3,8 ma perde un meno 1,2. Sì, sì. Diciamo che questa è la situazione. Allora, una descrizione di questa situazione molto particolare, dove le persone si sentono compresse tra tutte le notizie, il dettaglio della malattia, le tante informazioni che arrivano e anche spesso in un primo tempo contraddittorie tra di loro. Avevano bisogno proprio di un punto fermo. Le nuove, diciamo, parole del nostro Presidente del Consiglio sono state tese all'unità. Ha rivalutato, rispetto alle dichiarazioni precedenti, l'operato di quelli che sono gli operatori sanitari, perché tutte le persone si schierano al fianco di chi è in prima linea, perché potrebbe capitare a chiunque, questo è molto chiaro nella testa delle persone. E quindi la gente sta più con i governatori, con gli assessori, con i sindaci, dove leggono la volontà di vedere tutti che si lavora nella stessa direzione. Allora, su quest'onda, io credo molto probabilmente anche il centrodestra si è mosso in questa direzione, comprendendo che ad esempio Giorgia Meloni, che da sempre è riuscita a dire io espongo i miei fatti, ma desidero evidentemente sedermi al tavolo, non fornire solamente competenze o idee per poi, come dire, non avere un ritorno. A questo proposito, visto che la citi giustamente, altra leader del centrodestra, Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, sentiamo che cosa ha detto oggi. Noi chiediamo che le nostre proposte vengano considerate con la stessa serietà con la quale noi stiamo valutando le proposte del governo, senza chiuderci nel gioco della maggioranza e dell'opposizione, ma qualche buona idea l'abbiamo anche noi, perché non siamo lì per fare gli utili idioti di Giuseppe Conte, siamo lì per dare una mano al popolo italiano. Quindi una stoccata lo stesso l'ha data Conte al governo, però dicendo vogliamo partecipare, vogliamo collaborare, Alessandra Di Sleto. Certo, non partecipano tutti allo stesso partito, mettiamola così, chiaro. Però la collaborazione è aperta, penso che sia una risposta di consapevolezza e responsabilità che la politica italiana potrebbe dare, a differenza di qualsiasi partita, di qualsiasi partito, a qualsiasi partito si possa appartenere. Quindi credo che le persone hanno il desiderio proprio perché si impegnano, perché al nord un italiano su due ha cambiato le proprie abitudini di vita, in determinate aree più del 70%, nelle zone del centro e del sud un italiano su tre, e questo fa capire che sta cambiando la mentalità. È evidente che la preoccupazione verso un'economia che ristagna, verso la paura di chiudere le proprie attività, verso il timore che non sappiamo come finirà questa storia, verso questo sconosciuto che è invisibile, dobbiamo porci tutti insieme, pensando evidentemente di avere un unico verso, un'unica direzione e quindi anche un'unità di intenti. È evidente che poi ciascuno porterà le proprie ricette secondo il proprio schema di partito, ma è bello vedere, sarebbe bello vedere tutto un'unione dal punto di vista di quelle che sono le competenze. Quindi diciamo che è un momento particolare nel nostro paese, difficile, ma che potrebbe essere anche l'occasione per la nostra classe politica e dirigente di dimostrare unità e responsabilità per riuscire, appunto, come si diceva, a combattere questo nemico comune, e pare che la gente, le persone italiane e italiane abbiano capito quale sia la priorità. Grazie ad Alessandra Ghisleri. Grazie a voi. Ciao. Buonanotte. Alessandra, buon lavoro. Ciao. Ciao cara, grazie. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberta Giordano con voi. C'è qualcuno che dice: poi in realtà la polemica tra Meloni e Conte è andata avanti. Sì, però adesso speriamo che la direzione sia quella, sia univoca per tutti. L'appello abbiamo sentito anche del presidente Mattarella. Adesso abbiamo un minuto e mezzo affinché il nostro Giovanni Capuano ci aggiorni invece sulle misure prese per quanto riguarda lo sport. Giovanni. Eccomi, lo utilizzeremo cercando di metterci dentro tutto. Intanto il calendario della Serie A, che riparte in questo weekend senza partite sabato, con 5 partite domenica, la più importante ovviamente alle 20:45 Juventus-Inter, e con una partita lunedì, tutto rigorosamente a porte chiuse, così come da oggi ufficiale sarà a porte chiuse fino al 3 aprile anche la Serie B, che ha fatto il comunicato, e anche il campionato femminile, e così come a porte chiuse sarà, perché lo ha confermato l'UEFA, Valencia-Atalanta di Champions League, e lo stesso capiterà poi anche per la gara gara di ritorno dell'Inter, sempre in Spagna contro il Getafe. Per il momento non sono a rischio gli europei, attenzione però perché comincia ad aprirsi il dibattito su che cosa fare a partire dal 12 giugno. Oggi ha parlato Damiano Tommasi, che è il presidente dell'Asso Calciatori Italiana, e ha detto l'UEFA deve cominciare anche a considerare l'ipotesi di uno scivolamento avanti per consentire alle varie federazioni di chiudere il proprio campionato. Lo sport italiano però fa fatica, l'elenco delle cancellazioni è lunghissimo. Oggi è stata rinviata Italia-Inghilterra del 6 nazioni di rugby in programma il 14 marzo, è saltata le strade bianche in programma sabato a Siena, stiamo parlando di ciclismo, è stata cancellata la maratona di Roma del 29 marzo, la mezza maratona di Ostia, insomma è complicato. La Stramilano del 22 marzo, se vogliamo anche aggiungere, sì, no? Un po' tutte le gare. È difficile riuscire a tenere in piedi sia le manifestazioni a porte chiuse nei palazzetti, negli stadi, o anche quelle all'aperto, il caso del ciclismo che rischia davvero di pagare la sua ampia popolarità perché le strade non si possono controllare per centinaia di chilometri. Bene, sei stato di estrema sintesi, caro Giovanni Capuano, ti ringrazio, quasi avanzavano 23 secondi, ma comunque ti saluto e grazie ancora per questo aggiornamento. Ci dobbiamo lasciare, come sempre, io vi aggiorno poi brevemente alle 22.